La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. Mio marito si è innamorato di un'altra. Non c'è stato niente di fisico, ma soffro perché so che c'è stato tutto quello che conta. E adesso sento fra noi questo muro. Le mie amiche, tradite o traditrici, mi dicono che devo ringraziare Dio e che queste cote da adolescenti non contano. Firmato Leda. Ma io credo che le amiche spesso dovrebbero solo stare zitte. Non esiste confidente imparziale, ma nemmeno io, che sono sensibilissima ai tradimenti impalpabili e che ho lasciato la persona più importante per me per un amore non fisico con un'altra. L'unico confidente attendibile è la poesia, perché non ha pietà. Ti leggo dunque una poesia di Michele Mari, da 100 poesie d'amore a Lady Hawk, pubblicato da Einaudi nel 2007. Luggia di nascondere al consorte graffi paralleli sulla schiena o galassie di capillari rotti, mai noi la conoscemmo, perché sono sul cuore i graffi e le galassie dentro. Questo che sto per leggere è un vecchio racconto, si intitola La mamma, da un mio libro che si intitola Fulmini, editore Spirali, credo 1984. La mamma non si tocca. La mamma adopera con cinismo tutta la solennità mediterranea della mamma, purché non le rivolgano la parola. La mamma lavora, la mamma studia, prende appunti da certi libriccini, guai a chi va dalla mamma mentre lavora. La mamma è sempre arruffata. Sarà un segno di santità o avrà dei problemi, come tutti? La mamma con una matitina fa la lista della spesa e i conti dell'eternità, parla con gli angeli, col droghiere, con gli uomini volgari. La mamma sente la musica e non ci sarà in questo una sfida, qualcosa che un giorno esploderà. Perché la mamma ha questo di terribile, questo per cui la amiamo. La mamma spaventa i bambini, che la vedono così furiosa, spaventa anche gli adulti, acquattata nella sua stanza come un uccello in alto. Uccello sporco di foce e di fiume, parente povero dei gabbiani che si accontenta dei loro avanzi. Però ha un becco da cattiva. E tutti hanno paura. E lei ride, con un riso lievissimo, un po' da orco. La mamma però è in regola. Una che ha allattato, una che fa da cucina. La mamma compra molti vestiti da uno stracivendolo zingaro e delinquente. Vestiti vecchi, ognuno dei quali rappresenta un personaggio che poi la mamma fa vivere senza vergogna. E i bambini, educati al rigore, al timore del possesso, allo scialacquo come effimero spregio del capitale, e tutto ciò con serietà cristiana. I bambini sono perplessi. Ma che significano 50 abiti di seta? Abiti con la coda di tutti i colori, quando la mamma fa l'uccello colorato. Abiti grigi e rosa, quando fa l'uccello triste. E porteranno qualcosa di buono queste commedie? Ma i bambini non ci giurerebbero. La mamma gioca alle signore. Si dipinge le labbra, riceve i signori che nel gioco le portano i fiori e le dicono: ah, se sapesse, che triste vita è la mia. La mamma sorride e rimpiange solo di dover fare i suoi spettacoli con attori mediocri, tranne qualcuno. I bambini aspettano che il tempo passi nella sua stanza segreta. Aspettano il momento in cui, prendendo un abito della mamma, resterà in mano solo uno sfarinare di polvere. E poi il problema non è solo la mamma, magari. C'è anche un padre, marito della mamma e nostro genitore, che non modera la mamma, anzi. E il suo direttore teatrale. Certo, le insegna il fren dell'arte, ma non è una garanzia sufficiente. Il padre, un bellissimo uomo col gilet e un bastone di bambù, ride. Perché? Quando lei arriva con un nuovo rossetto color sangue e fa dei sorrisi molto sconvenienti. Ride quando lei morde le mele. Ride quando gli altri pensano che dovrebbe piangere. e nessuno sa perché. La mamma è buona con tutti i disgraziati e gli squalificati che passano per la casa. Ha ospitato, curato, tolto i pidocchi ai viaggiatori con le droghe nella cintura, a una cattiva ragazza incinta, a uno scrittore con la parrucca. Ce li ha messi tutti in casa. Si beffava della religione, ma peccava di tutte le riprovevoli carità che essa raccomanda. C'è stata anche una suicida abituale, che convertita dalla mamma alla vita, rompeva bottiglioni di vino rosso sui tappeti. Poi, per fortuna, le loro disgrazie li portavano altrove, altrimenti la casa sarebbe diventata un lazzaretto ateo ma ripugnante. Questo prima, però, quando la mamma faceva ancora professione di bontà pratica. Poi non ha voluto vedere più nessuno. Si è chiusa in cima alla casa, davanti alla palma, e sembra che dalla palma dipenda la sua vita. La palma non è un simbolo, è l'unico punto fisico, indiscutibile, che nonostante il trascorrere del cielo, possa illuderla di una stabilità. La mamma fa una desueta distinzione, fastidiosa per molti e che inquieta i bambini. Distingue tra gente che ha l'anima e chi non ce l'ha. Poi le distinzioni si complicano moltissimo. C'è chi non l'ha mai avuto, chi l'ha perduta, chi l'ha buttata, chi non la vorrebbe, via dicendo. Chi veramente ha i suoi problemi è il padre. Ha perso la vita dietro la mamma e ora vorrebbe recuperarla, la vita. Lui era un ragazzo imprevedibile. Non voleva proprio fare il carceriere. Il ruolo è noioso, si sa, e si ha sempre torto. Ma lei ha insistito. Gli è stata addosso per anni come la rondine sbattuta contro il muro. Ha sospirato, ha chiesto di vivere e lui ha abbattuto tutti gli ostacoli perché lei trovasse un po' di pace. Lei dice: ho mal di testa. Il padre la mette sul divano e gioca alle bambole. La cura, le ordina di star bene e gli odia i malati. Lei dice: papà, con una voce di porcellana, e lui si arrabbia. Ma poi capisce che se si arrabbia fa il gioco di lei, che è cambiar gioco, e fa finta di niente. La mamma prenderà un treno in corsa. I bambini la inseguiranno sulle rotaie tenendosi per mano, gridando mamma mamma, e lei, tanto che hanno la bocca aperta, butterà nelle loro fauci i suoi 50 vestiti. I bambini faranno indigestione di seta, raso, merletti, rossetti e calze di velo. Mentre il treno corre nel mondo, il padre niente. Fuma la pipa in giardino e aspetta. E ancora ride, più divertito che mai. E più che mai nessuno si spiegherebbe la sua allegria. Ho conosciuto un uomo stupendo. È nato un grande amore, anche se lui era sposato e io convivevo. Io ho lasciato il mio compagno, perché non sopporto il doppio binario. Lui invece è rimasto con la moglie, che non ama, che gli manca di rispetto. Dormono separati, scenate su scenate. Lui dice di disprezzarla e di adorarmi, ma non la lascia. Mi obbliga a sotterfugi umilianti per questa donna orribile. Beh, sarà orribile questa donna, ma mai quanto lui. Lui se la merita. E tu ti meriti lui, se ci stai insieme. Non riesco più a sopportare i battibecchi fra i miei genitori sposati da più di 30 anni. Negli ultimi tempi i loro litigi sono aumentati e sono diventati più accesi. Urla e offese sono ormai all'ordine del giorno. Ma quello che mi fa più male è vedere mia madre piangere. Io cerco di consolarla, di farle capire che può sfogarsi e contare su di me, ma non c'è niente da fare. Papà poi ha un carattere diverso, è più giocoso, allegro. Non mi fa pesare la situazione. Però nel periodo in cui è in guerra con mia madre diventa ombroso e quasi non parla neanche con noi. Questa situazione dura per qualche giorno, poi si riappacificano e vanno d'amore d'accordo, mano nella mano. Ma poi per qualche inezia, eccoli lì di nuovo a scontrarsi e a ignorarsi per giorni e giorni. Vorrei essere indifferente, ma non ci riesco. Sono i miei genitori. Mio fratello ha un carattere diverso dal mio, è più freddo, e mi dice di farmi gli affari miei. Però come fare a voltare lo sguardo da un'altra parte quando dietro succede di tutto? Lo so che non sono una bambina, ho 21 anni. Dovrei pensare più a me e farmi scivolare quello che mi succede intorno. La situazione pesa più a me, perché io non ho un lavoro e stando sempre a casa mi è difficile essere indifferente. Ma come che fare, Valentina? Di tutto per dileguarti, cambiare aria, tentare l'impossibile per arrivare all'indipendenza e avere un alloggio tuo. Io, se fossi in te, sbaglierei, perché farei presente educatamente il disagio che ti crea la loro maleducazione, sia di sposi che di genitori. Però non come chi accampi un diritto sulle loro vite, ma sulla propria. Però guarda, nulla servirà a farli smettere. Non cambieranno mai, perché loro si piacciono così. Hanno creato questo teatrino dell'insulto, di berciarsi l'uno contro l'altro, ed è il loro equilibrio. Sostituisce l'erotismo, è un circuito sempre uguale di offesa, lite, riappacificazione. Fanno esplodere il loro rancore, il loro disprezzo, poi si acquietano, si sentono meglio. Fanno pagare l'uno all'altro una unione sgangherata, piena evidentemente di riserve da ambo le parti, e poi si concedono la tregua. Io credo che ormai la frequenza delle loro scenate sia prevedibile come le maree. Sono sicura che abbia una cadenza fissa. Loro non sanno fare diversamente. È un funzionamento elettrico di energie malate. Vattene, metticela tutta per trovarti un lavoro e renderti libera e ritrovare una dignità, anche limitando il danno che questi genitori spensieratamente ti stanno facendo. Questo è il loro teatrino e voi siete il loro pubblico. Siete il pubblico di una commedia a copione fisso, con qualche variazione, ogni volta calcando più i toni per inchiodare gli spettatori. E loro hanno bisogno di voi per metterlo in scena. E se almeno uno, cioè tu, non ci rimane traumatizzato, per loro è un fiasco. Lo sai che coppie del genere, quando restano sole, litigano molto, ma molto meno? Quando ero giovane avevo due amici così, sposati. Ci invitavano apposta per litigare, per offrirci lo spettacolo. Poi, riflettori spenti, cinguettavano come cince. Ovviamente è durata poco, perché dopo le prime due o tre volte abbiamo capito l'andazzo, non ci siamo andati più. Il tuo disagio è il loro successo. È come un lungo applauso a scena aperta. Che poi a te costi la salute spirituale, che gliene frega loro. C'è chi intende i figli come un dovere e chi li intende invece come un servizio a proprio beneficio. Non cambieranno mai, finché tu sei lì a macerarti. E poi senti, chi non ha rispetto di sé, perché dovrebbe averne dei figli? Ho ripreso gli studi dopo una lunga pausa, sono più che adulta, e mi sono laureata con felicità. La felicità è continuata anche dopo, quando ho potuto continuare a studiare col mio maestro, lo studioso che mi aveva entusiasmato di più. Lo conoscevo attraverso i suoi libri e l'incontro è stato un regalo inatteso. Per 4 anni ho potuto lavorare nel suo gruppo di ricerca. Per me, che arrivavo da un ambiente universitario asfittico, è stato realizzare un sogno. Ho cambiato città e lingua, ho conosciuto persone nuove, alcune davvero preparate, e ho finalmente restituito un senso ad una passione che si stava affievolendo. Il professore veneratissimo è circondato da una corte adorante. Io ho cominciato a farne parte, le cene a casa del professore, persino un invito per le vacanze. I racconti del professore e di sua moglie, che ha molta simpatia per me e io per lei, suonano un tantino agiografici. Il soggetto è sempre il professore, i suoi viaggi, i suoi incontri, i suoi successi. Gli aneddoti spesso si ripetono, ma il pubblico è sempre rapito. E il rapimento, per un po', è anche il mio. Sono trasportata in un mondo in cui si brilla di luce riflessa. Per di più stringo amicizia, sincera, con l'allievo prediletto. Io lo stimo moltissimo e tifo per i suoi successi. Poi però qualcosa si incrina. Le storie del professore veneratissimo cominciano ad annoiarmi e col passare dei mesi finisco per trovarle fastidiose. Provo molta tenerezza per la moglie che è per tutti soltanto la moglie del professore. E poi mi mette a disagio il pettegolezzo, la competizione per il posto a tavola vicino al venerato. E soprattutto mi ferisce che, messo davanti a delle scelte, il venerato sistematicamente escluda le ragazze a favore anche del più mediocre allievo maschio. La mia amicizia con il suo allievo migliore vive un momento di crisi. Qualcosa è venuto meno. So che a tenerci uniti è l'ammirazione che avevamo per l'uomo che ci ha fatto conoscere, ma io vedo ormai le cose diversamente. Ho provato ad esprimere i miei dubbi. Gli ho fatto notare che spesso il venerabile, che pure rimane un eccellente studioso, non è sempre giusto. Ma ho visto che stavo scavando un fossato. Che posso fare? Non voglio offendere nessuno e soprattutto non vorrei perdere un amico che stimo e a cui voglio bene. Alessandra. Alessandra, sei capitata in una corte, in una delle innumerevoli corti che si muovono attorno a qualche piccolo grande uomo. Ma lo sai quante ce ne sono? Miliardi. Che siano studiosi, scrittori, musicisti o attori, la struttura intellettuale della società nostra si dipana tutta attorno a un piccolo Cesare, sempre maschio, che come prima cosa schiavizza la moglie. E lei ci sta e non merita compassione. Si è immolata e lui la fa immolare. È un contratto perfetto. Intorno un cerchio di ragazze che di volta in volta sono le favorite. E tra l'altro sono meno di quanti si creda quelli che esercitano il loro potere portandole a letto. La maggior parte sono dei tali tromboni che sono più appagati dalla reverenza e dall'obbedienza. E lui è uno di questi. Prima seduce l'adepte e ha sedotto anche te, non in senso carnale ma intellettuale. Poi ti sei accorta che facevi parte di una corte dove le gerarchie non sono meno ridicole di quelle del Re Sole. Poco a poco i raggi si allontanano impercettibilmente una volta conquistata, perché il capo si nutre di nuovi adepti. All'interno di queste corti le gelosie sono feroci e permettimi di esprimerti tutta la mia stima e la mia simpatia e la somiglianza nostra per la tua ingenua imprudenza di credere che uno dei cortigiani ti fosse sinceramente amico. Forse, finché non hai votato il sacco su cosa cominci a pensare del professore. Se questo ragazzo è un ambizioso, gli hai dato un'arma letale contro di te e ti puoi considerare già fuori, perché lui la userà. Sei già mezza nemica della setta, cioè tutta. Se invece lui è un vero devoto del tiranno, peggio ancora, perché hai bestemmiato la sua fede e non sarai perdonata. La cosa più importante è che per te la magia si sia rotta. L'aura del fascinatore è caduta in pezzi. Non sei più in quella logica dell'adorazione. Con la prima critica che hai fatto sei uscita dal sortilegio. Ma molla gli sti fanatici. Ormai per te stare col professore è come vedere Dio quando non ci credi più. Gentile Barbara, la sento alla domenica mattina per radio o attraverso il sito. Ho 51 anni e sono separato fisicamente da mia moglie da 3 anni. Ma realmente il matrimonio era già nullo da 10 anni. Abbiamo una figlia che passa una settimana con la mamma e una col papà. Rapporto splendido con mia figlia e nessuna animosità con la mia ex moglie. Mi sento sereno, ma mi manca tremendamente relazionarmi con un'altra donna e sento questo squilibrio dentro di me. Un mese fa succede un fatto straordinario, mai accaduto neanche quando ero giovane e andavo alla ricerca di ragazze. Normalmente prendevo solo legnate. La mamma di una compagna di mia figlia mi si avvicina e ci mettiamo a parlare per circa 10 minuti. Lei si presenta a me e la cosa rimane lì. Questo fugace incontro mi fa attraversare da una tempesta emotiva spaventosa. Per 3 settimane mangio pochissimo, vado in cortocircuito emotivo e mi sento un blocco allo stomaco perdendo ben 5 chili. Dico, forse mi sono innamorato? In questo periodo c'è stato uno scambio di mail e alla fine ho chiesto a lei di incontrarla. Abbiamo trascorso la serata piacevolmente, da notare che ho compiuto gli anni da poco e mi ha fatto gli auguri solo lei. Lei al sabato mattina ama camminare e le avevo proposto di farle compagnia, ma mi ha detto che per ora preferisce camminare da sola. E in questo momento ha troppe ferite aperte e non se la sente di intraprendere una relazione. Perché lei è venuta a rompermi le scatole creando in me chissà quali aspettative? I 5 chili persi mi dicono che non mi sono inventato queste cose. Mi si è o era scatenato l'innamoramento. Ciò che si è innescato dentro di me è molto positivo, perché all'altro sesso sono ancora interessante e quindi non sarà lei che devo cercare. Anzi, la lascio perdere e cerco altre donne. Ha risvegliato un ramo secco dentro di me. Ho preso un'altra legnata o una carezza? Né legnata né carezza, ma uno squillo di tromba, potente come quello degli angeli, che annuncia una grande notizia. Sei ancora vivo. I 5 chili che hai perso, appena una donna ti ha rivolto la parola, appena hai potuto immaginare un pensiero d'amore, dimostrano quanto ne avevi disperatamente bisogno. Tu, dopo la separazione, ti sei messo in un cantuccio, come se i sentimenti fossero una cosa del passato, il sesso un vago ricordo. È commovente l'idea di questo corpo che si distrugge, che si assottiglia, che si perde appena una donna mostra di accorgersi di lui, appena una ti fa gli auguri per il compleanno. Ed è il segno che ogni tua molecola vive nell'attesa di una rinascita. Nella tua lettera c'è la domanda e c'è la risposta, diagnosi saggissima. Sai da solo che devi soltanto uscire, riconoscere di esistere, come dice Cito ancora Sandra, il mondo intero è sempre lì, la vita, con le sue cose sorprendenti. Ringrazio di cuore l'ascoltatrice Carmen Nicosia, che qualche tempo fa aveva scritto per chiederci di leggere i versi del poeta inglese Wilfred Owen, famoso per le sue poesie contro la guerra, dove non parla mai di principi, ma soltanto di moncherini, di occhi schizzati, di distruzione della gioventù. La sua lingua poetica è molto efficace nella descrizione materica del macello. Per le notizie seguo soprattutto l'impostazione di Carlo Ruffini, che ha curato le poesie di guerra di Owen per Einaudi. Il sogno del soldato. Sognai che il buon Gesù aveva sabotato gli ingranaggi dei grossi pezzi d'artiglieria e inceppato in modo irreparabile tutti gli otturatori. Con un sorriso aveva deformato le Mauser e le Colt e arrugginito con le lacrime tutte le baionette. E non c'erano più bombe, né nostre né loro, neppure un vecchio acciarino o una forca. Ma Dio, seccato, dette pieni poteri a Michele, che al mio risveglio aveva riparato tutto. Wilfred Owen era il figlio del capostazione di Birkenhead, un sobborgo industriale pieno di fumo e di nebbia. Era nato nel 1893. E si scoprì poeta a 10 anni, mentre era in un luogo molto letterario, il Cheshire, che è la patria del gatto invisibile di Lewis Carroll. Wilfred era bellissimo e aveva fretta, cioè aveva quella fretta che hanno gli artisti che muoiono giovani, che non lo sanno, però fanno di tutto per essere più veloci della morte, per lasciare un segno alla faccia sua, per sentire intensissimamente nel poco tempo che hanno a disposizione. Fin da ragazzino legge Keats e la Bibbia e ha la passione dello studio, però è povero e quindi per pagarsi l'università lavora in parrocchia del reverendo Wigan, ma poi, come l'ingenuo di Voltaire, si rende conto che il vicario fa il contrario del Vangelo, di quello che si raccomanda nel Vangelo, che se ne frega dei poveri e dei sofferenti e quindi si licenzia. Quando Wilfred ha 21 anni, scoppia la Prima Guerra Mondiale. Lui sta facendo l'insegnante privato a Bordeaux e vede arrivare all'ospedale i primi feriti della Grande Guerra. Salutandolo con una pacca sulla spalla, dissero certo al ragazzo di affrontare sempre il tedesco con volto da coraggioso. Suo padre l'avrebbe preferito morto che disonorato. Le sorelle si dolsero che alle ragazze non toccasse sparare, caricare, imprecare. I fratelli promisero di spedirgli le sigarette preferite. Ogni settimana, per mesi, gli scrissero le stesse cose, credendolo al riparo in una baracca, poiché così faceva credere lui. Mentre scriveva, poggiando il foglio sul calcio del fucile, dove un proiettile allora mancava il bersaglio. I suoi occhi invecchiarono a furia di trasalire. La mano prese a tremare di febbre. Il coraggio prese a scemare, come la sabbia dai sacchetti dopo anni di pioggia. Ma mai una licenza, una ferita, la febbre, uno shock liberarono il meschino e la morte tardava a interrompere la tortura meccanica dei bombardamenti. Aveva visto uomini di pattuglia la notte spararsi sulle mani. In patria non si seppe mai, restavano comunque dei vigliacchi. «Meglio morti che disonorati, tienilo a mente», diceva suo padre. Un'alba la nostra pattuglia lo riportò. Stavolta la morte non lo aveva mancato. Fu incidente? Un cecchino? No. Era inglese il proiettile che poi ritrovarono. Assieme a lui seppellirono la museruola che aveva baciato coi denti e scrissero sinceramente alla madre: «Tim è morto sorridendo». Owen torna in Inghilterra e si arruola in un corpo speciale che esprime tutta l'originalità britannica. Si chiama gli Artists' Rifles, un corpo di fucilieri che sono quasi tutti artisti e intellettuali. A 23 anni, con reggimento Manchester, va a combattere sul fronte francese. È un soldato coraggioso, un soldato pieno di iniziativa e sarà presto promosso tenente, finché gli esplode una bomba vicinissima che colpisce i binari del treno e lui resta per vari giorni intrappolato in una buca, fra le macerie, accanto a un compagno morto dal primo istante. Viene giudicato inabile al servizio e ricoverato nell'ospedale militare di Edimburgo. E lì c'è il grande incontro. Siegfried Sassoon, un poeta già famoso che oggi è ricordato come il poeta della Prima Guerra Mondiale, che nelle sue poesie attacca violentemente la guerra in corso. Ma non solo nelle poesie, ha fatto un gesto molto importante. Avendo preso una croce di guerra, l'ha buttata nel fiume e ha fatto un manifesto pubblico. E c'è una grossa differenza tra Owen e Sassoon. Owen è decisamente antimilitarista e contro tutte le guerre, mentre Siegfried Sassoon è contro quella guerra, contro la continuazione di quella guerra, quando si potrebbe raggiungere un armistizio. E lui scrive la dichiarazione di un soldato. Questo scrive Sassoon: rendo pubbliche le mie opinioni come consapevole atto di sfida alle autorità militari, perché penso che la guerra venga volontariamente prolungata da quelli che avrebbero il potere di porle termine. Sono un soldato e credo di poter parlare a nome dei soldati. Ritengo che questa guerra, cominciata come guerra di difesa e di liberazione, si sia trasformata in una guerra di aggressione e di conquista. Ho visto e patito sulla mia pelle le sofferenze delle truppe e non posso più accettare di rendermi complice di chi prolunga questo sterminio. Spero di poter contribuire a infrangere la compiaciuta indifferenza con cui la maggior parte di coloro che sono rimasti a casa assiste al perdurare di agonie che non tocca loro patire. Quindi, quando si incontrano con Owen, il giovane Sassoon, io spero che si pronunci così, altrimenti compatitemi. Il giovane Sassoon era un eroe per i giovani intellettuali, era un simbolo. E quindi quando si incontrano con Owen, nasce fra loro una magnifica amicizia che influenzerà l'opera di entrambi. Poi non ci sono soltanto loro due. Agli occhi del meravigliato Owen, l'ospedale militare di Edimburgo si rivela un piccolo Parnaso, perché c'è anche un altro grande personaggio, Robert Graves, che adesso è un soldatino e non è ancora il grande scrittore, per citare il suo libro più famoso, Dei miti greci. Questi ragazzi hanno tutti e tre 20 anni, sono tutti e tre poeti e tutti e tre amano il bel sesso, quello maschile. Owen e Sassoon apertamente, mentre Graves invece si sposerà 2 volte, avrà 8 figli e il suo amore per i maschi rimarrà segreto e rattratto. A questo proposito c'è una poesia molto bella, perché lui ha amato sinceramente anche le sue mogli. Era, come si dice oggi banalmente, bisessuale, però naturalmente questa terra non esplorata, fatta solo di amori platonici, rimarrà per lui un grande sogno. E c'è una poesia molto triste, molto bella, dove lui parla della moglie e di questo segreto che c'è tra loro, di questa cosa non detta, di questa nostalgia eterna che lui avrà dell'amore maschile. Entrando fiducioso nel giardino in cui ti dimostrò tanto affetto, poco fa, seduto al suo posto, trovi una donna sconosciuta. Se i capelli ti rizzano e fissi lo sguardo sulle sue mani intrecciate e sul suo viso bianco, senza vita, uomo, non dirle parole di consolazione, dissimula il tuo stesso tormento. Ritirati in silenzio, guarda altrove. Questo è il filo cupo della doppiezza. Il lutto divino per ciò che non può essere, ovvero un amore totale per lei senza rimpianti. E comunque torniamo all'ospedale militare dove si sono incontrati Owen, Sassoon e Graves. Dicevamo, la poesia di Sassoon influenza quella di Owen e anche viceversa, c'è un'osmosi tra loro, un'osmosi artistica, ma per Owen molto di più. Perché lui si innamora perdutamente di Sassoon, che anche lui amava l'amico, ma da amico, e sarà poi nel tempo sarà il più efficace e fedele difensore della sua poesia, della poesia di Owen, dopo che sarà morto. Però tutti i testimoni sono concordi nel dire che Sassoon non corrispondeva all'innamoramento di Owen, ma forse a Owen bastava il suo di amore. Poeta e gentiluomo è un romantico forsennato. Lui pensa che la guerra sia orribile, ma non è obiettore di coscienza, lo è nelle poesie. In verità poi quando si trova sul campo di battaglia è sempre il primo ad andare all'attacco per assolvere il debito dell'onore, anche se sa bene quale disonore irreparabile sia la guerra. E mentre Owen scrive ispirato dall'opera dell'amico e della sua vicinanza, ecco che Siegfried Sassoon viene rimandato al fronte. Owen ha terrore che i nemici possano uccidere il suo amico. E invece, come spesso succede in guerra, è più facile essere ammazzati dai compagni. E Siegfried Sassoon viene ferito alla testa, per sbaglio, da un ufficiale inglese e viene congedato. E qui accade qualcosa che sarebbe inesplicabile se non fosse per l'amore di Owen per Sassoon e per il cavaliere antico che c'è in questo soldatino del 1918. Owen, che dopo il ricovero potrebbe godere di un congedo illimitato, che nessuno vuole rimandare in guerra, chiede invece di tornare al fronte per compiere la missione di Sassoon. Scrive in maniera non chiarissima Sergio Ruffini nella prefazione alle sue poesie. Missione, ma in che senso? Se tutti e due avevano in abominio la guerra. Poi su Wikipedia trovo scritta una cosa quasi plausibile. Owen sentì la responsabilità di cantare le tremende realtà della guerra e di occupare al fronte il posto lasciato dall'amico. Ma anche questo non è convincente. Cioè, della guerra Owen ne aveva visto abbastanza, ma non aveva mica bisogno di tornarci per scriverne. Non era un reporter, era un poeta. Eppure chiede di tornare a combattere e viene mandato in Francia. Fa in tempo a meritare la croce militare per aver guidato un assalto vittorioso e nell'attacco seguente viene ucciso 7 giorni prima della fine della guerra. Aveva 25 anni. In cambio, eccolo immortale, giovane per l'eternità. Io non so chi abbia scritto questo bel commento che ho trovato sempre su internet, riguarda il film Regeneration, tratto da un romanzo sul soggiorno in ospedale di questi 3 giovani di grandissimo talento. E scrive: Sass e Owen, Sass era il nome affettuoso di Sassoon, in ospedale si scambiarono poesie e frammenti di vita. Sì, Wilfred Owen era un poeta, ma era fatto di un cristallo docile, quasi mistico. Il suo sangue pulsava in maniera diversa da quella di Sass e Isaac Rosenberg, entrambi ebrei, già temprati dal pregiudizio antisemita. Un suo commilitone raccontò che il poeta aveva avuto una morte indolore. Un solo proiettile lo aveva trapassato fra una tempia e l'altra. Aveva 25 anni. Era stato fortunato. Ma insomma, ma perché c'è andato? Sassoon era tornato. Avrebbe potuto riunirsi a lui. Era stato un grande incontro. Solo che Owen ne era innamorato e l'altro no. Però lo adorava come amico. E credo che sia insostenibile per un amante questa tortura morbida. Avete mai amato ardentemente non ricambiati, ma non eravate pronti a tutto? Anche solo per essere guardati una volta come voi guardavate l'altro. E non avete mai fatto dei gesti rischiosi, simbolicamente chiari soltanto a voi, che segretamente e fermamente racchiudessero l'assoluto del vostro amore, cioè l'omaggio sommo, e la prima cosa che viene in mente da dare è la vita. Sai che gliene importava della vita a Owen, che aveva la fortuna di stare nel mezzo di quella fiamma? Questa è la mia idea e non c'è niente di storico, è un'impressione suffragata dalle lettere, dagli scritti, dalla storia. Secondo me Owen vuole entrare nel cuore di Sassoon per sempre, anche attraverso una fucilata. Così decide di andare in guerra, sostituire Sassoon, prendere il suo posto fisicamente, creare con lui una parentela ripercorrendo gli stessi luoghi, correndo gli stessi pericoli, schivando le stesse fucilate, stessi pidocchi, stesso rancio, stessa paura. Insomma, un matrimonio segreto con Sassoon. E se muore, sarà indissolubile. Non è mica così strano. E non sarebbe sembrato strano nemmeno Leopardi, che scrive in amore e morte. Fratelli, a un tempo stesso, amore e morte ingenerò la sorte. Cose quaggiù si belle, altre il mondo non ha le stelle. Nasce dall'uno il bene, nasce il piacer maggiore che per lo mar dell'essere si trova. L'altra, ogni gran dolore, ogni gran male annulla. Bellissima fanciulla, dolce a veder, non quale, la si dipinge la codarda gente. E sorvolando insieme la via mortale, primi conforti di ogni saggio core, né cor fu mai più saggio che percosso d'amor, né mai più forte sprezzò l'infausta vita, né per altro signore come per questo a perigliar fu pronto. Come tu porgi a ita, amor, nasce il coraggio, o si ridesta. Quando novellamente nasce nel cor profondo un amoroso affetto, languido e stanco insieme con esso il petto, un desiderio di morir si sente. Come non so, ma tale, d'amor vero e possente, è il primo effetto. Tanto alla morte inclina, d'amor la disciplina. Questa è la poesia più famosa che Wilfred Owen, poeta inglese morto a 25 anni durante la Prima Guerra Mondiale, ha scritto contro la guerra. e si intitola Dulce et decorum est e parla dei soldati. Piegati in due come i vecchi mendicanti, con le ginocchia ricurve, tossendo come streghe, imprecavamo nella melma, finché girammo le spalle al bagliore dei proiettili e verso le nostre lontane retrovie cominciamo ad arrancare. Gli uomini marciavano dormendo. Molti avevano perso gli stivali e andavano calzati di sangue. Finirono tutti zoppi, tutti ciechi, ubriachi di fatica, sordi persino al sibilo delle stanche granate che cadevano lontane. Il gas, svelti ragazzi! Come in estasi annasparono, appena in tempo infilandosi gli elmetti. Ma qualcuno continuava a gridare e inciampare, a dimenarsi come un uomo in mezzo al fuoco o alla calce, confuso attraverso le annebbiate lastre di vetro e la luce verde, come sotto un mare verde lo vidi annegare. In tutti i miei sogni, davanti ai miei occhi, si tuffa verso di me, colando giù, soffocando, annegando. Se in qualche brutto sogno potessi anche tu metterti dietro il vagone dove lo gettammo e vedessi i bianchi occhi torcersi nel suo viso, il suo viso penzoloni, come un demone sazio di peccati. Se tu potessi udire ad ogni sobbalzo il sangue che esce gorgogliante dai polmoni. Amico mio, tu non diresti mai più con tale entusiasmo ai bambini ardenti per qualche disperata gloria la vecchia menzogna, dulce et decorum est, pro patria mori. Antifona per la gioventù sventurata. Lui si riferisce alla guerra del 15-18 cui ha partecipato e nella quale è morto. Quali campane ha morto per costoro che cadono come bestiame? Solo la mostruosa rabbia dei cannoni, solo la rapida, crepitante balbuzzi dei fucili può sgranare per loro frettolose orazioni. Adesso basta con le prese in giro. Niente preghiere e campane, né funebri lamenti, salvo i cori dementi delle granate. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, l'intervento del giovane Lorenzo è stato eccezionale. Complimenti davvero. Questo giovane parla benissimo, trasmette un entusiasmo contagioso. Ai Super Bolt, l'atleta e non il detersivo, preferisce Josefa Idem. Questo sedicenne, come un fulmine, ha rischiarato l'etere radiofonico oscurato dai vecchi parrucconi della nostra inadeguata classe dirigente, che ci ammorbano con i loro interventi falsi, pessimistici e privi di poesia. Nessuno ti ha mai detto che assomiglia alla matrigna di Cenerentola? Solo esteriormente, ben inteso. Tutte le sere, quando leggo le fiabe ai miei due figli, vedo delle illustrazioni di Walt Disney e mi viene in mente la guardiana del faro. Te ne allego due. Saluti, Emanuele, Cuneo. Caro Emanuele da Cuneo, ho girato la tua mail a Lorenzo Ceccioni, che era molto contento del tuo entusiasmo per il suo intervento, e ti ringrazia. Quanto a me, no, non me l'aveva detto ancora nessuno che assomiglio alla matrigna di Cenerentola disegnata da Walt Disney. E sai, non mi fa molto piacere che un padre la sera racconti Cenerentola alle figlie e pensi che la matrigna è identica a me. E poi non pago del complimento, per tornagusto, ma hai pure mandato le illustrazioni. Tante volte non avessi presente l'orrendo muso cattivo di cui secondo te sei il ritratto, anche se aggiungi solo esteriormente. Beh, direi che l'esteriorità è molto. Io non credo che tu sia un buon fisionomista, Emanuele. Altri mostri io potrei ricordare, ma non quello. Se tu avessi un pezzettino di terzo occhio, vedresti che in comune con quel simbolo di ingiustizia io ho solo una pettinatura ottocentesca e il naso lungo, perché quell'immagine rappresenta la razza padrona, la volontà di opprimere. Questi geniali disegnatori di Walt Disney sanno cosa fanno. Quello, guardalo bene, è il viso di una donna che non ha mai fatto l'amore. Due volte. Tanto per mettere al mondo le sorellastre, per far dispetto a Cenerentola, e manco le è piaciuto, perché al posto del sesso ha una calcolatrice d'antica foggia. È una che risparmia sui domestici e difatti fa fare la colf all'orfanella. Ha un'espressione avida. Io la faccio da pazza. Scusa Emanuele, è un'altra cosa. E non ho bisogno di te, scusa Emanuele, per avere delle perplessità sul mio fisico. Fosse stato per me, io mi sarei disegnata altrimenti, da giovane e da vecchia. Per esempio, da giovane come Louise Brooks. Se non la conosci puoi trovare le sue fattezze incantevoli in rete. Ah, io quella faccia l'avrei portata bene. E specialmente quel corpo, un giunco senza peso. Questo da giovane. Adesso vorrei la faccia di Clint Eastwood, invece la mia. E credimi, ripeto, anche senza la tua lettera, mi ci vuole ogni giorno una dose di umorismo in più per passare sopra la mia faccia. Anche perché col tempo mica si migliora. Lo vedrai anche tu, eh? Magari sarai fortunato, ma in genere non si migliora. E ogni giorno ti specchi e vedi che si è aperto un nuovo canyon, un crepaccio, si stendono delle sterpaglie, una geografia di rughe sempre più frastagliata, rocciosa. Non ho bisogno di te, Emanuele, per essere sgomenta. Per fortuna c'è quell'istante davanti allo specchio, dopo sopravviene la vita e lì i crepacci da saltare sono altri. Ma così è. E sai, il tuo modo di fare è molto diffuso. Se fai un elogio a Lorenzo, devi umiliare me. Possibile che sia così difficile avere uno slancio per qualcuno senza offendere un altro? Come una paura di essere generosi. Do qualcosa a qualcuno, ma la tolgo a un altro. E così siamo pari. Ma pari con cosa? Pensa che uno dei grandi piaceri di parlare alla radio è che non mi vedono e che si viene assolti dal corpo. Non è come la TV. Ma nemmeno qui si può stare in pace. Ma che ve ne frega del mio aspetto? Io qui sono una voce. Io lo so, tu l'hai detto senza malizia, però mi è dispiaciuto tanto. E adesso, per rifarci la bocca, voglio invece leggere un complimento bellissimo che ha mandato Luca Modesti. La vostra trasmissione mi riscalda i piedi nel letto. Oh, grazie Luca. Grazie con la G fosforescente, anche un po' pacchiana, coi lustrini, le luci intermittenti. Perché la tua frase è fra le più originali espressioni di affetto di chi ci ascolta. Sai, di solito le lettere di elogi non si possono leggere perché sono insopportabili. Non per me, ma per chi le ascolta sono molto noiose. E anche indisponenti. Cioè, io quando lo fanno gli altri non lo sopporto. Chi legge gli elogi che gli arrivano si fa gli elogi da solo. È tra le forme di vanità più patetiche e ripugnanti. E si sospetta pure sempre che siano inventate. Poi inventate o no, comunque da fastidio. Però nella tua frase c'è un'idea. C'è una carezza sensibile che si può trasmettere anche agli altri. E c'è un interno. Uno di quegli interni di ascoltatori di cui andiamo veramente ghiotti. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.